Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Bentrovati ai genitori e ai ragazzi, che mi auguro numerose, a Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Giorgio De Luca in assistenza e regia, e mentre so per lasciare brevemente la linea alla viabilità. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, grazie del grande. Non è l'unica cosa grande che abbiamo oggi in trasmissione, perché c'è oggi anche un grande schermo. È vero, perché oggi partiamo da una guida pubblicata dalle edizioni Il Castoro, una guida ai film per ragazzi, un libro ricchissimo scritto a più mani che serve ai figli per fare un percorso nel mondo del cinema usando criteri di qualità e divertimento, Alberto. Sì, oggi invece di parlare di problemi dei figli, parliamo di cose belle da fare con un figlio. E siccome arriva l'inverno, io e la Nicoletta con l'articolo davanti, abbiamo proprio pensato che il cinema è una straordinaria risorsa educativa. È uscito proprio in questi giorni questa magnifica guida e quindi oggi noi ce ne siamo innamorati. State con noi perché ci divertiamo. Intanto, per stare con noi potete subito intervenire chiamando il nostro numero verde 800 24 0024, 349 238 6666, se volete mandarci un messaggio. Lo conoscevi, a mio padre? E come no? Altro che se conosceva tuo padre. Era alto, magro, simpatico. Aveva certi baffi come i miei. E rideva sempre. Assomigliava a Clark Gable. Alfredo. Chi c'è? Ora che sono più grande, vado alla quinta. Non dico che posso incominciare a venire in cabina, ma magari, perché non diventiamo amici? Io scelgo i miei amici per il loro aspetto e i miei nemici per la loro intelligenza. E tu sei un po' troppo furbo per essere amico mio. E poi io lo dico sempre ai miei figli: mi raccomando, state attenti a trovare gli amici giusti. Come, se tuo figlio non ne hai? E quando ho figli, ce lo dico. E allora, Alberto, al cinema per un figlio e con un figlio vogliamo proprio dedicare l'intera puntata di oggi. La clip diceva state attenti a cercare gli amici giusti. Oggi invece noi stiamo attenti a cercare il film giusto per nostro figlio. Abbiamo un sacco di cose da fare con voi. Iniziamo. Intanto abbiamo pensato a un piccolo gioco. Proprio abbiamo preso da questa guida i film per ragazzi edizione Il Castoro tre indicazioni, proprio tre consigli che sono contenuti. Li abbiamo montate, quindi adesso sentirete una sequenza di piccoli estratti da tre film diversi. Ascoltatela con molta attenzione, perché il primo che ci manda un SMS con tutti e tre i titoli dei film giusti riceverà a casa, grazie alla collaborazione con IBS Internet Bookshop, proprio la guida ai film per ragazzi, quindi avrà lo strumento subito a casa sua per poterlo usare da domani. Se sei veramente un ballerino, balla! Vediamo che sai fare! Non ti azzardare! Che razza di insegnante sei tu, eh? All'occasione di ballare! Balla tu, idiota! Che hai fatto oggi? Niente. Non dire fesserie. Felice ha detto che stavi da quello e che lo volevi liberare. No, te lo giuro. L'ho tirato fuori e l'ho rimesso subito dentro. Quante volte t'ho visto? Tre. Quante? Quattro. A volte vorrei avere solo un giorno per sentirmi un vero orco di nuovo. Nessun problema, le transazioni magiche sono la mia specialità. Una firmetta. Entro la fine della giornata tu ti sentirai un orco nuovo. Devo dire che sono abbastanza semplici, non c'è bisogno di un aiutino. Al 349-238-6666 iniziate a mandarci i titoli di questi tre film in collaborazione con IBS. Potrete ricevere a casa la guida ai film per ragazzi. E noi qua in studio abbiamo Michele Ravasio e Barbara Sorrentini, che salutiamo subito e che metteremo subito al lavoro. Benvenuti. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Intanto a Michele, che ha curato tutta la redazione del volume, vorrei chiedere quali sono i criteri ai quali proprio vi siete ispirati, come si compila insomma una guida attuale, contemporanea, che susciti proprio nei ragazzi la voglia di vedere un film e di ricavarne anche qualche cosa. Certo. Sì, noi siamo partiti appunto dall'idea che volevamo realizzare un libro che parlasse di cinema per ragazzi, che fosse utilizzabile, fruibile, quindi inizialmente anche addirittura solo comprensibile dai ragazzi, che già non era semplice, nel senso che abbiamo dovuto ripulire tutto il per esempio il linguaggio e tutto da una serie di termini eccessivamente tecnici, cinefili, che potevano complicare le cose. Volevamo fare un Avete libro... Avete fatto quindi un buon lavoro anche per noi genitori, Infatti, perché non si doveva rischiare di fare un libro che parlasse di cinema per ragazzi, ma che lo facesse con mezzi e un linguaggio che non solo addirittura era impossibile da comprendere per i ragazzi, ma addirittura tagliava fuori anche un gran numero di insegnanti e genitori che desideravano anche strumenti di questo tipo, in quanto appunto a quel punto ci si rivolge solo a dei veri super appassionati di cinema, a un campo molto ristretto. Noi volevamo fare invece un libro che potesse arrivare a più persone possibili, che fosse semplice, che fosse utile come una guida. Si chiama Guida ai film per ragazzi, vuole essere quasi come una guida di viaggio, in cui insomma, aprendola anche un po' casualmente, si può trovare tanti consigli utili, a partire dalle visioni, a partire da tante notizie divertenti per i ragazzi, esplicitamente cercate appunto e raccontate poi nel modo più leggero possibile, per cercare di divertirli e di farli avvicinare al cinema. Allo stesso tempo ci sono anche tanti strumenti pensati invece per gli adulti, per gli insegnanti, come tutto l'insieme di categorie tematiche, per cui se si vuole pensare alla visione di un film per approcciare un determinato argomento, un tema specifico, un periodo storico, lo si fa senza problemi, insomma. Vero? Si la fa in fondo, ecco, e si trova tutti i film. È facile, di consultazione molto facile, Alberto. È facile... È bella, perché è proprio una guida a colori, secondo me è un libro straordinario proprio anche da leggere, cioè se voi lo metterete nelle mani dei vostri figli scoprirete che loro si perdono, credo, per ore dentro, riconoscendo intanto i film che hanno già visto e probabilmente incuriosendosi a film che invece vorrebbero vedere. Abbiamo qua Barbara Sorrentini, che è la coautrice, una delle coautrici del libro, che coinvolgeremo potentemente poi nel secondo e terzo blocco, perché vi lanciamo un'altra sfida e ci aiuteranno proprio Michele e Barbara. C'è un'altra guida che vi aspetta, sempre in collaborazione con IBS. Oggi sembra Natale dentro il nostro programma. Voi dovete chiamarci e scriverci indicandoci qual è la vostra serata cinema ideale con un figlio, cioè come è fatta, se volete, oppure di che film è fatta, quindi qual è quel film che, visto con vostro figlio, vi sembra particolarmente bello e interessante, oppure qual è il film che voi da bambini avete visto con vostro papà o vostra mamma e ha lasciato un segno nel vostro percorso. Quindi si premia un po' la qualità in questo secondo messaggio. Lo faremo scegliere, mentre per la prima indicazione vale sapere naturalmente i titoli giusti, ma il primo ascoltatore che li invia. Quindi oltre a sapere i titoli dovete essere anche molto veloci al 349-238-6666. Diteci qual è il film da vedere con un figlio preadolescente e adolescente, e giriamo un po' la domanda anche a Barbara Sorrentino, e soprattutto vorremmo capire da lei perché il cinema è uno straordinario alleato per un genitore della crescita di un preadolescente e di un adolescente. Ma innanzitutto, per la prima cosa forse che il cinema fa divertire va detto e non va dimenticato, però naturalmente sono altre poi le peculiarità di un buon film. Stimola la fantasia, aiuta a creare dei sogni, aiuta anche a creare dei modelli, si spera positivi naturalmente, certo. Per questo poi anche con la guida vorremmo aiutare anche a cercare dei modelli attraverso il cinema. Le storie, aiuta a costruirsi storie, a impararle e poi magari anche a continuarsi un film nella testa, a conoscere mondi. Ci sono film stranieri che raccontano storie differenti, di mondi differenti, magari di bambini che vivono in modo diverso da come viviamo noi, che altro, possono aiutare anche a salvare delle situazioni difficili. Penso a Truffaut, per esempio, che ha lavorato tanto con gli adolescenti. Lui ha sempre detto che in qualche modo il cinema ha cambiato anche la sua di vita, e questo succede in certe situazioni. Veramente i ragazzini si possono trovare davanti a un film e a riuscire a scoprire nuove emozioni, a modificare le proprie, a imparare a controllarle, a conoscerne di nuove. Io vorrei chiedere sia a Michele che a Barbara se ci potete fare un esempio di un buon cinema per un adolescente, ma allo stesso tempo se ci aiutate a capire cosa invece non è un buon film, magari nonostante uno straordinario successo di cassetta. Michele, vuoi iniziare? Sì, tu? Sì, sì. Allora, diciamo che secondo me un buon film per un adolescente è fondamentale che innanzitutto parli di qualche tema, argomento significativo, interessante, e che porti da qualche parte, che insegni qualcosa. Come struttura di base ci deve essere quello. Allo stesso tempo però è assolutamente fondamentale che il linguaggio del film sia adatto a un pubblico di adolescenti, per cercare di evitare il rischio di invece di fare magari film poi eccessivamente pesanti, noiosi, che poi rischiano di allontanare gli adolescenti. Certo. Quindi anche quando si tratta di parlare di tematiche importanti, difficili, che vanno benissimo, farle però sempre in un modo abbastanza leggero, cercando di mettere poi elementi che in un modo o nell'altro possano avvicinare i ragazzi a quel tipo di scenario, ai personaggi, magari utilizzare anche attori, volti particolarmente noti, che sono utili perché il ragazzo ci si può immedesimare facilmente, e mischiando quindi una sostanza consistente, temi attuali e importanti, a una forma comunque divertente, perché non bisogna dimenticare che appunto alla fine il ragazzo si deve anche divertire davanti. Assolutamente, già gli proponiamo una serata con noi, quindi magari deve rinunciare ad una serata con gli amici. Ci stanno arrivando. Ancora, se gli facciamo vedere magari un film che a lui non piace, è fuori dalle sue corde, il fallimento è assicurato. Non per niente ci scrive per esempio Leonardo, 13 anni, e lui dice: io un film che ho visto con papà, Il Gladiatore, che consiglia agli altri genitori e agli altri ragazzi all'ascolto, scoprendo Forrest, Lisetta da Genova, Stargate. Chiamateci, scriveteci, diteci qual è il film ideale per una serata cinema con un figlio. Ma adesso allora teniamo la domanda difficile che aveva fatto prima Nicoletta per Barbara, cioè dateci un esempio di film che viene detto è un film per adolescenti e che no, invece non va bene. Che non va bene? Sì. Non vogliamo, visto che il prossimo capitolo sarà dedicato a questo, non voglia, allora, tra quelli che sono stati suggeriti dagli ascoltatori sicuramente ci sono cose molto positive. Quelli che non vanno bene sono quelli che buttano dentro la violenza gratuita. Sì. Poi arriveremo con un esempio. Voi avete scelto proprio un film che è Fast and Furious, di cui poi parleremo, che è proprio, certo, un esempio lampante. O quelli che in qualche modo cercano di far valere un ragazzino soltanto per la forza, per valori che non ci sono. Insomma, se prima dicevamo che un film positivo in qualche modo deve anche trasmettere dei valori divertendosi, ecco, l'esatto opposto è quello che non va bene. Un altro film, che secondo me è una serie di film che non vanno bene, forse sembrerà un po' bacchettona, però tutta la serie di Arma Letale, che noi comunque abbiamo nel volume, sono troppo improntati sul senso di morte, sconfitta e valore per chi invece vince. Ecco, tutti questi qui forse sono un po' negativi per i ragazzi. Tenendo conto che i ragazzini, penso agli ultimi anni delle scuole medie piuttosto che ai primi anni del liceo, iniziano ad andare al cinema da soli, con gli amici, al pomeriggio, la domenica pomeriggio, il sabato. Sono proprio, forse tante volte il ragazzino inizia proprio a uscire, parlo per esperienza personale, mi ricordo delle mie figlie, le uscite erano: si va al cinema, allo spettacolo delle 5 e poi si mangia la pizza, ecco. E in quelle situazioni lì tante volte i ragazzi scelgono dei film perché li sceglie il gruppo, perché li scelgono in gruppo, e i genitori non sono tanto d'accordo. Alberto, possiamo interferire anche su queste scelte fuori casa, o che cosa dire? Ma io dico di no, nel senso che se poi hanno 15-16 anni e col gruppo decidono di andare a vedere quella cosa lì, credo che poi i nostri figli sono anche intelligenti, magari fanno una cosa molto, perché la fa il gruppo, e poi loro quando vengono fuori, anche se l'ha fatta il gruppo, comprendono che quello è stato tempo perso, non gli è piaciuto più di tanto. In questo senso a volte però vedo anche la difficoltà, cioè arrivano in un multisala e 4 film su 7 sono quella roba lì. Adesso lancio proprio una provocazione a voi tutti i genitori. Provochiamo. Provochiamo, perché è quasi arrivato il momento dei cinepanettoni, dove io vedo non i gruppi di ragazzi che entrano, ma le mamme e i papà che entrano con tutti i loro figli. Io trovo che quello sia un cinema che, se noi possiamo per 2 ore ruminare con un po' di risate e siamo adulti, per un bambino di 8-9 anni non solo non è divertente, cioè ridono perché ridiamo noi, ma è proprio anche spesso incomprensibile per il genere di situazioni. Però qua abbiamo due esperti, facciamo parlare loro. Barbara. Ma sul cinepanettone io personalmente sono abbastanza negativa come giudizio, nel senso che è un po' il frutto di quello che poi regala la televisione. Ci sono, è vero, famiglie intere che vanno al cinema magari una volta all'anno e vanno a Natale per vedere il cinepanettone. Ai ragazzini dà molto poco il cinepanettone, mancano i riferimenti, ma quando anche ci fossero riferimenti non so quanto positivi sarebbero per loro. Per i genitori è diverso, riconoscono personaggi visti in TV, riconoscono naturalmente un battage pubblicitario che la televisione potenzia molto, e decisamente è negativo. Noi nella guida non abbiamo inserito nessun cinepanettone, anche perché poi per un fatto di età non è molto vicino. È vero anche però che ci sono degli adolescenti che magari li scelgono da soli dopo una certa età, dai 14 in su, e lì certo. E lì passiamo alla patata bollente a Michele. Sì, diciamo che insomma il cinepanettone è un po' un fraintendimento, nel senso che quest'idea di questo film per tutti, per tutta la famiglia, vacanziero, insomma, si può benissimo scegliere qualcos'altro per andare tutti insieme al cinema. Come dicevamo prima, non insegna sostanzialmente nulla, e anzi allo stesso tempo può anche essere a volte addirittura diseducativo, diciamo, per cui non abbiamo nemmeno avuto il dubbio da questo punto di vista se inserirli o meno nella guida. Sulle scelte fatte direttamente dai ragazzi, che vanno benissimo secondo me, appunto, soprattutto arrivati a una certa età va benissimo che vadano al cinema a vedere quello che vogliono insieme agli amici, è chiaro che spesso la loro scelta cade sui prodotti più spettacolari, più certo, anche pubblicizzati, più ricchi. Questo secondo me non è che sia un male in sé, va benissimo andare a vedere. Devono assaggiare più generi. Certo, e soprattutto io direi che però è un'occasione che va sfruttata, nel senso che se poi sotto tutta una certa patina, un certo spettacolo, una grande azione, cioè ci si può mettere anche qualcosa di interessante a livello di contenuti, per cui insomma si può anche insegnare qualcosa attraverso quei film lì. Va bene lo stesso, il problema è non perdere quell'occasione lì. Andrea ci chiama da Imperia, 800 24 00 24, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, io sono un giovane padre, direi appassionatissimo di cinema, un figlio di 2 anni al quale ho voluto trasmettere questa mia passione cominciando con i cartoni animati. Ed è diventato appassionatissimo, alla sera guardiamo i cartoni animati assieme, gradisce anche il western, quello dei grandi paesaggi, delle mandrie di cavalli, proprio per la sua passione degli animali. Sì. E questo è cominciato per una giornata di pioggia, non si sapeva che fare, mio figlio è impossibile da tenere in casa, ho detto, proviamo. Ho messo Galline in fuga, che secondo me per quel genere di età lì è un film splendido, senza volgarità, senza doppi sensi, ma una storia molto semplice e divertente, e poi da lì ho provato a fargli digerire qualcos'altro. E così adesso non è un po' Andrea, scusi, ma non voglio fare faccio io l'Alberto Pellai della situazione ma 2 anni non è troppo, io capisco la sua passione, ma 2 anni mi sembra così piccino, Alberto. Ma in realtà qua entriamo nell'area più pediatrica, la cosa importante è non farli appassionare alla televisione come sottofondo e come ritmo continuo che accompagna la loro vita. Proporre invece esperienze di breve visione, magari co-visione, anche quando sono così piccoli, probabilmente è un modo per alimentare una passione. Quindi quando viene scelta non per riempire tutto il tempo libero, ma come una delle esperienze fra tante, quindi potremmo dire una volta alla settimana scegliamo. Tra l'altro è stato bravissimo perché ha scelto uno dei film miei preferiti, ma che effettivamente con quel genere di animazione, quello di Gallina in Fuga, ai bambini di 2 anni piace da impazzire, ma sì, chiediamolo ai nostri esperti. Sì. Bar, Michele. Sì, appunto, l'esempio di Gallina in Fuga è bellissimo, condivido in pieno, fa parte di tutto quel filone dell'animazione più recente, che intanto è molto utile perché piace tantissimo anche ai genitori, allo stesso tempo però appunto con un'animazione così elementare, è girato in passo 1, questa è una cosa un po' tecnica, ma insomma utilizzando dei veri pupazzi proprio, sì, che vengono spostati e mossi piano piano, poco alla volta. Questo fa sì che appunto anche per un bambino che non capisce fino in fondo quello che gli viene raccontato con quel film, tra l'altro Gallina in Fuga appunto racconta anche una storia molto complessa, allo stesso tempo però sicuramente risulta una visione piacevole proprio grazie a questo tipo di estetica molto molto semplice, per cui direi che da quel punto di vista può essere utile come abitudine appunto già dall'inizio a vedere appunto film di questo tipo. Barbara, tu sei mamma. Sì, infatti, partendo proprio da questa età dei 2 anni, in effetti si è anticipato molto il tempo. Per esperienza personale anch'io posso dire che ha cominciato 2 anni mio figlio. Abbiamo iniziato con i classici Disney, su quello devo dire che c'è sempre comunque un appoggio perché hanno la musica, penso a Fantasia per esempio, sì, sono tante immagini belle, colorate, accompagnate da questa musica meravigliosa che non può far che bene, giustamente per poco tempo chiaramente. O gli Aristogatti, ecco un altro film classico che regala paesaggi, regala una storia, di Aristogatti, cuccioli, questa passione. C'è Maria Assunta che ci chiama all'800 24 00 24. Buongiorno a voi e grazie per la vostra trasmissione. Grazie Maria Assunta, ci racconti, lei ha un suggerimento da darci per una serata da passare con i figli davanti al grande schermo, insomma, un grande schermo casalingo, oppure vuole fare una domanda? Io voglio fare una domanda. Bene. E la puntata di oggi cade proprio a pennello nella mia situazione familiare, perché la nostra bambina più grande, ragazzina più grande, che ha quasi 11 anni, frequenta la prima media, scuola nuova, quindi amici nuovi che noi genitori non conosciamo. Oggi viene invitata ad andare al cinema insieme ad alcune compagne di scuola, sì, a vedere Maschi contro Femmine. Mm, di cui noi abbiamo parlato anche a Essere Benessere. Mm. Io ho detto di no, l'ho spiegato a Cecilia che è un film per adulti e ho visto il trailer in internet e lo voglio far vedere anche a lei. E ho detto guarda, è un film che nemmeno a me fa ridere perché non è adatto a delle ragazzine della vostra età. Il mio conflitto è: ho fatto bene, ho fatto male, perché so che è importante il primo anno scolastico con nuovi amici, così coltivare anche le amicizie, e le amicizie nascono anche da queste uscite insieme. Certo. Però mi sembrava proprio inadatto ad un pubblico così giovane, a 11 insomma, anni, senza la presenza, ecco, anche dei genitori, perché sarebbero andate da sole. Ho fatto bene, ho fatto male? Ho fatto bene, ho fatto male. Facciamo un giro dei nostri esperti. Iniziamo da Alberto. Allora, Alberto pensa che la mamma ha fatto bene, perché questa è proprio una delle situazioni che vi ritroverete per un altro milione di volte, ma legato non solo al cinema. Cioè la frase tutti lo fanno e questo dovrebbe autorizzare o sdoganare il permesso dei genitori verso un figlio rispetto ad esperienze per cui invece magari non sono pronti o che non sono adeguate. Credo anch'io che a 11 anni Maschi contro Femmine non sia il film migliore, c'è in questo momento Cattivissimo me al cinema, che è perfetto ed è molto molto divertente, e io credo che un genitore abbia proprio il diritto di dire per questa cosa. E tra l'altro credo che la mamma sia stata molto brava, cioè sono andati insieme a vedere il trailer su internet e hanno in qualche modo motivato la decisione. Film che consigliamo comunque ai genitori. Assolutamente, poi ognuno ha proprio il suo spazio. Direi che usiamo, brutto termine, i nostri esperti, perché allora a Maria Assunta diamo un consiglio per un film magari da grande che però va molto bene per una figlia di 11 anni, un passaggio al videonoleggio e in alternativa... Ma in alternativa io vado su un grande classico che probabilmente hai già visto, ma che è E.T., l'extraterrestre di Spielberg. Forse è uno dei film che parla in modo migliore ai giovani, racconta anche che cos'è la diversità, racconta anche che cosa significa accudirsi di una persona che ha bisogno, e soprattutto fa scoprire un mondo alieno che in qualche modo arriva anche attraverso queste immagini, che viene raccontato in vari modi. Questo qui forse è il più fedele a una realtà che probabilmente non esiste, ma esiste nei valori umani, nelle emozioni, nei sentimenti, che arriva a tutti. Invece, Michele, a proposito di maschi contro femmine, prendo spunto dal titolo, in molte famiglie ci sono figli, penso alle famiglie, non solo famiglie numerose, ma banalmente c'è il ragazzino e la sorella, due età diverse, i maschi preferiscono, come li chiamano le femmine, no? I maschi vogliono guardare cinema d'animazione, lotte, eccetera, magari la ragazzina vuole vedere più storie d'amore, e i genitori che decidono di passare una serata con i figli noleggiando un film si trovano un po' in difficoltà. Quale scegliere, no? Come trovare un film che metta d'accordo tutti? Sì, diciamo che appunto bisogna stare un pochino attenti, cercare un attimino, però si può soprattutto, come diceva Barbara, magari facendo riferimento a quell'universo di film appunto spielbergiani, tutta una produzione che è ugualmente adatta per temi e per modi, appunto, a maschi, femmine, genitori e figli, unisex. E non si capisce più chi si diverta di più poi alla fine vedendo questi film qui. Poi se si tratta di uscire padre e figlio va benissimo andare a vedere più Indiana Jones, se si tratta di uscire invece madre e figlia si sceglierà altre produzioni, magari più sul versante sentimentale o cose di questo tipo. Però insomma, di film che mettano d'accordo tutti sicuramente ce ne sono parecchi, nella guida ne abbiamo trovati davvero tanti. Alberto. Volevo di nuovo approfittare dei nostri esperti per lanciare comunque una provocazione, cioè ci sono proprio dei film che sono adrenalinici, molto centrati sull'azione. Citavamo prima Fast and Furious, che ai ragazzi piacciono tantissimo, ma che spesso noi adulti vediamo a fianco loro e ci spaventano, perché li vediamo proprio magnificare azioni ad altissimo rischio, tutta quell'area di prevenzione su cui noi invece vorremmo impegnarci per far sì che i nostri figli non ci cadano dentro. Carmelo dalla regia, un breve estratto lo possiamo ascoltare, che così entriamo anche un po' nell'atmosfera. Andiamo. Che cosa vuoi? Dimmi il tuo nome! Dimmi il tuo nome! Sei venuto per portarmi dentro, Connor? No, era anche mia amica. Barbara. Ma lo abbiamo già anticipato prima, sì, è uno di quei film che fanno perno sul coraggio, ma un coraggio diciamo che non porta a nulla, perché alla migliore delle ipotesi porta ad andare all'ospedale, visto che queste gare pazzesche in macchina non sono certo una cosa positiva, sono una prova di forza, una sorta di passaggio dall'età giovane all'età adulta, però assolutamente pericoloso e di conseguenza sbagliato. A me veniva in mente, ne parlavamo ieri con Michele, da Gioventù Bruciata. Erano altri tempi decisamente, ma forse era anche un diverso malessere quello che avevano i giovani che si buttavano in queste gare, però è finita male anche per James Dean, che ha avuto proprio seguito quel corso, quindi no, negativo. Alberto, vogliamo leggere qualche sms dei nostri ascoltatori che ci hanno proposto e suggerito titoli di film da vedere insieme ai ragazzi, in modo che Barbara e Michele possano scegliere quello che riceverà a casa il libro guida ai film per ragazzi, mentre noi abbiamo già Giorgio De Luca ha preso l'ascoltatore che per primo ha inviato la risposta dei nostri tre film che abbiamo mandato in onda, e quindi lo saluteremo tra poco. Alberto. Allora, sono arrivati più sms che segnalano Stargate, proprio in qualche decina di sms, un film che ritorna e tra l'altro è incluso nella guida. Un film che mi ha segnato molto da ragazzino è stato Forrest Gump. Fabio, che è un temerario, Il Padrino senza dubbio, prima lo guardi, prima lo amerai. Molto bello il consiglio di Annalisa, mi è piaciuto molto vedere Invictus con mio figlio di 13 anni e Juno con mia figlia di 14 anni. Buongiorno, quando ero piccolo insieme ai miei genitori vedevo spesso il film Shusha, mi piaceva molto e chiedevo sempre di rivederlo. Massimo, ne sono arrivati tantissimi e tra l'altro i nostri esperti hanno già scelto anche il messaggio che poi andremo a premiare, ma prima abbiamo un altro vincitore. Allora abbiamo in linea con noi Walter dalla provincia di Alessandria. Buongiorno Walter. Buongiorno, buongiorno. Allora Walter, lei riceverà a casa la guida film per ragazzi perché è stato il primo ascoltatore a mandarci la sequenza dei film giusti. Che era, Walter, lei cosa ha scritto? Grazie, sì, erano vabbè, Billy Elliot, Io non ho paura e Shrek, erano questi. Lei è un appassionato di film? Sì, mi piace molto guardare i film, sono tre film che ho visto tutti e tre e li ho riconosciuti subito, perché lì la scena Billy Elliot è il fratello, mi sembra, se ricordo bene, che porta il fratello più piccolo e l'altro Io non ho paura, anche li ho riconosciuti subito, sì, visivamente. Sì, erano, devo dire Walter, che erano abbastanza facili, almeno per uno che li ha visti, li riconosce. Lei è un papà, quindi li vede anche con i suoi, li ha rivisti anche con i suoi figli, come si comporta? Io sì, sono un papà, ho un bambino di 1 anno e 8 mesi. E allora c'è ancora tempo, c'è no? C'è ancora tempo, sì. Cioè, grazie, però intanto con questa guida lei, come infatti, si dice, si porta avanti. Volevo chiedere solo una cosa, poi ascolto per radio. I film di Miyazaki, La città incantata, secondo me sono film bellissimi. Vero che ci piacciono molto. Sì, per sì, cui... assolutamente. Michele. Li abbiamo inseriti tutti nella guida, sono un esempio perfetto, oltretutto anche in quel caso lì, di film che fin da piccoli affascinano tantissimo i bambini, proprio per la loro grafica e per la loro semplicità. Allo stesso tempo però sono ricchissimi poi di temi importanti, di rimandi, piacciono anche i genitori, quindi sicuramente è uno di quegli di quei casi perfetti, sì, che dicevamo prima, che possono andare bene davvero per tutti. E che si può dividere anche per età, perché per esempio La città, certo, incantata è per più grandi, Ponyo sulla scogliera invece può andare bene anche per si i più piccolini. Si può partire prima, sì sì sì. Allora, Alberto, abbiamo 20 secondi prima di salutarci. Salutiamo Valentina, che ha scritto: io con i miei figli guarderei Ritorno al futuro, finché da bambino ho amato molto. Valori positivi e fantasia coniugati in perfetto equilibrio, infatti Valentina è stata selezionata dai nostri ospiti, riceverà la loro guida a casa. Allora, io ringrazio Barbara e Michele per essere stati qua con noi, anche perché ci hanno accompagnato, ci hanno dato davvero tanti spunti, non abbiamo che da scegliere il film e da passarci una serata con i nostri ragazzi. Grazie ad Alberto Pellai, grazie a voi, un saluto e buona serata cinema a tutti.